A bordo campo di Dario Ricci. No, a me non mi è cambiato niente, sinceramente, solo che ci penso e penso che ho vinto il mondiale e mi dà molto gusto, è bello. Senti, vittoria di squadra ma anche vittoria di famiglia, no? Tu sei molto legato, sì, alla tua famiglia che ti segue in tutte le gare, la tua sorellina si dice che sia il tuo miglior consigliere, è vero? Ma adesso non è che il mio miglior consigliere, però anche lei dice la sua e insomma la sto a sentire, insomma. Non sempre dice delle cose utili, però ogni tanto anche sì. Il paragone, l'accostamento sempre più frequente con il tuo amico Valentino Rossi, come lo gestisci? Ti pesa? Più di una volta ho detto, noi siamo molto amici e diciamo lui è anche comunque un mio idolo, ecco. Però io non sono Valentino Rossi, io sono Marco Simoncelli e faccio, diciamo, la mia strada senza cercare di imitare nessuno, ma io sono così perché sono così, ecco. Così Marco Simoncelli si era raccontato qui a Radio 24 a pochi giorni da quel terzo posto proprio a Sepang, che nel 2008 in sella a una Gilera gli aveva regalato il titolo di campione del mondo nella 250. La corsa di Super Sitch proprio a Sepang è finita la settimana scorsa e sollevando non solo dolore, rimpianto, rammarico, ma anche le inevitabili discussioni, le inevitabili polemiche sul tema della sicurezza. E proprio questo aspetto vogliamo affrontare oggi insieme al nostro ospite Vittorio Cafaggi, responsabile dello sviluppo dei progetti strategici di Dainese, l'azienda veneta che veste molti piloti del motomondiale e che è proprietaria anche del marchio dei caschi AGV, che è anche il marchio del casco indossato in questa tragica domenica a Sepang da Marco Simoncelli. Benvenuto Vittorio a bordo campo. Grazie Dario e un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio 24. Tanto dolore e tante domande da questo tragico incidente, dall'addio a Super Sitch. Tra l'altro Vittorio, prima di entrare nel vivo della nostra discussione, vale la pena ricordare un elemento importante. Proprio Simoncelli è stato il primo pilota del moto mondiale a sperimentare quelli che sono gli airbag di ultimissima generazione proprio con voi, vero? È vero, ricordo perfettamente l'occasione a Valencia, era nel 2007, quando per la prima volta si è aperto questo sistema protettivo che sembrava impossibile, invece è diventato possibile anche grazie appunto al lavoro di Marco, che naturalmente ora ci manca moltissimo per tutte le mille ragioni che leggiamo e ascoltiamo in questi giorni, ma soprattutto anche per il contributo che ci ha dato in termini proprio di miglioramento della sicurezza. Eh sì, perché sono degli airbag di ultimissima generazione, futuribili, che riescono a leggere movimenti del pilota e soprattutto della moto e in base a quelli entrare in azione, addirittura nel caso che la lettura di questi movimenti sia in qualche modo imperfetta o quantomeno non rimandi direttamente a una caduta vera e propria, questi airbag addirittura si sgonfiano e permettono al pilota di continuare tranquillamente la sua gara, no? Sintetizzando brutalmente. È esattamente così, noi la chiamiamo innocuità ed è un concetto molto importante che parte dal principio che la prima azione di una protezione deve essere quella di non creare problemi o di non creare maggiori problemi di quelli che risolve, e si chiama innocuità, sembra una banalità e invece è il primo principio da tenere presente quando si progetta una nuova protezione. Eh sì, perché insomma rimanesse gonfio questo airbag sarebbe un bel ingombro con tutti i problemi del caso, concetto che riprendiamo fra poco, ma vorrei parlare prima di tutto di questo casco che indossava Marco Simoncelli. Molti appassionati ma non esperti sono rimasti sorpresi dal fatto che il casco in quel tragico impatto con Edwards e poi con Valentino Rossi sia volato via, si sia staccato. Perché è veramente una reazione da parte del casco così sorprendente? No, non è una reazione sorprendente. Allora, premesso che naturalmente tutti siamo rimasti scioccati nel vedere appunto il casco rotolare, detto questo dobbiamo anche dire che non solo normale, ma è doveroso che questo accada. Se il casco non si staccasse, causerebbe lesioni molto molto gravi alla testa e al collo del pilota, fino ad arrivare addirittura in alcuni casi a staccargli la testa. Quindi, cioè, su questo dobbiamo essere molto chiari. Oltre un certo livello il casco deve, il cinghiolo di ritenuta deve staccarsi, così come in caso di caduta la calotta deve rompersi, deve delaminarsi, perché proprio nel far ciò assorbe l'energia dell'urto. Naturalmente nel caso del tragico incidente di Markol l'energia generata da due urti di seguito di quell'entità è talmente grande che penso nessun tipo di casco di protezione avrebbe potuto svolgere una funzione utile. Dicevi di questo concetto di innocuità, no? Che cui facevi riferimento proprio in merito al funzionamento dell'airbag. Mi fa rivenire in mente un altro tema caldo dei discorsi di questi giorni, cioè la protezione del collo. In molti si sono chiesti, caspita, oltre alla sfortuna di quest'urto proprio nella parte più esposta, il problema anche che il collo effettivamente in un motociclista è la parte veramente meno protetta. Da questo punto di vista, come state lavorando? Qual è lo stato dell'arte, Vittorio? Già i progetti airbag in essere tendono a limitare i movimenti del collo in caso di caduta, sia nella versione racing che nella versione stradale. Tra parentesi, saranno tutte e due presentate al Salone di Milano, l'EICMA. Bene, detto questo, proprio in riferimento al concetto di innocuità, se metto una struttura attorno al casco, una struttura fissa può essere problematica. Abbiamo visto che ci sono dei collari rigidi che vengono usati in alcune situazioni ben precise come il fuoristrada. Bisognerebbe fare delle prove per capire se in un incidente con la dinamica che abbiamo visto domenica un collare di questo tipo non possa diventare una ghigliottina. Mentre invece se parliamo di impiego di airbag, si gonfiano molto rapidamente per proteggere. Bisogna stare attenti che un sacco troppo grande non crei problemi al collo, perché nel momento in cui io gonfio molto rapidamente un sacco su una testa molto inclinata, mi fa rimbalzare la testa dall'altra parte e potrei provocare delle lesioni. È proprio questo il concetto a cui facevamo riferimento prima, ed è per questo che le protezioni vengono introdotte dopo severissimi test, specialmente l'airbag, e dopo aver fatto tutta una serie di prove specifiche. Eh sì, è un po' l'effetto, sintetizzando, che spesso all'inizio, diciamo, forse ora molto meno, si aveva con i primi airbag sulle autovetture, che andavano sia ad aprirsi immediatamente, ma spesso anche con effetti dannosi sul conducente o il passeggero a fianco, no? Che venivano anche feriti da questi strumenti di protezione. È esattamente questo il caso. E ritornando, se mi permetti, faccio un passo indietro sul casco, dicendo che sempre da questo punto di vista esistono dei test specifici per verificare la tenuta del sistema di ritenzione, in questo caso la cinghia di fissaggio del casco alla calotta, e prevedono che il casco venga rilasciato da un'altezza di 75 cm con un peso di 10 kg e il sistema di ritenzione deve resistere e non deve allungarsi più di tanto. Ora, facendo un calcolo abbastanza brutale, diciamo che deve resistere ad un carico di 750 kg, ovvero sia 375 kg per punto d'attacco. Immaginiamoci cosa può voler dire applicare forze di questo genere ad un casco dentro ha appunto il capo di una persona, e naturalmente sorpassare probabilmente anche di parecchio livelli di energia così alti, insomma, per dare un punto di riferimento, magari un po' di ordine di grandezza, ma comunque efficace nel descrivere le forze in gioco in un incidente come quello accaduto domenica a Marco. L'airbag che indossava Simoncelli sarà ancora oggetto di studio e soprattutto sarà in grado di fornire ulteriori dati rispetto a quello che è accaduto a Sepang, vero? Perché è capace anche di registrare i dati di quello che è accaduto. Esatto, ha incorporato un sistema di telemetria per cui non appena riceveremo di ritorno dalla Malesia i componenti, per il momento più di tanto non possiamo dire perché non li abbiamo ancora esaminati in modo approfondito, potremo scaricare la telemetria sperando che il sistema non si sia danneggiato e verificare velocità e tempi coinvolti nell'incidente. Tra parentesi, anche Valentino indossa lo stesso sistema e quindi possiamo usufruire anche dei parametri che possiamo scaricare dal sistema di Valentino. Tanto amore, tanto entusiasmo, tanta passione ci ha lasciato Marco Simoncelli, e lo abbiamo visto in modo clamoroso in questi giorni, ma parte della sua eredità arriverà anche ai driver che tutti i giorni guidano la moto sulle strade, e proprio in termini di sicurezza, vero Vittorio? Sì, certamente. Io penso che dobbiamo guardare in questo momento di grande dolore per tutti, tuttavia dobbiamo guardare a quello che ci lascia Marco, e credo che ci lasci soprattutto la possibilità di portare quello che ha fatto lui in termini di sicurezza a tutti i motociclisti, anche per le strade di tutti i giorni, perché il sistema che portava lui diventa un sistema stradale che chiunque usi un veicolo a due ruote per strada potrà impiegare, naturalmente con tutta una serie di caratteristiche tecniche specifiche per l'uso stradale. Tu che l'hai conosciuto da vicino e che ci hai lavorato insieme, c'è un'immagine che conservi di Super Sitch che ti porti dentro in questi giorni? Sì, ne ho due per la verità. Una è ultimamente, come da Inese abbiamo organizzato una cosa che si chiama Italian Legendary Tour, abbiamo fatto un giro in moto insieme nel nord Italia, siamo arrivati a Torino per festeggiare il 150esimo, è stato bello, c'erano anche Lucchinelli, c'erano anche Agostini, è stata un'esperienza molto bella. E poi mi ricordo una volta che sono andato, mi ha invitato a mangiare a casa sua la piadina che anche a lui piaceva tanto, preparata da sua mamma e da suo papà Paolo, che ho il piacere di conoscere da tempo e al quale in questo momento sono particolarmente vicino, assieme al resto della famiglia naturalmente. Vittorio Cafaggi, responsabile dello sviluppo dei progetti strategici di Dainese, grazie per essere stato oggi qui a Radio 24 e a Bordo Campo. Grazie a te Dario, e di nuovo un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio 24. A Bordo Campo. Questi 45 giorni non sentite di tutti i colori, che potevo perdere l'occhio, non ci vedevo più, tutte queste robe qua. Oggi eravate preoccupati che potevo dire che non potevo più giocare a calcio. Ce ne vuole per abbattermi. Io dico sempre che c'è di peggio nella vita, la dimostrazione è ieri. Sto lottando con un uomo invisibile in questo momento, nel senso che vedere doppio non è bello, però va bene. Come dico sempre, c'è di peggio, è importante è non mollare e guardare avanti. Paralisi del sesto nervo cranico, l'abbiamo sentito dallo spirito battagliero e dalla viva voce di Rino Gattuso. Ringhio, campione del mondo, campione del Milan, vincitore di fatto di tutto ed emblema del nostro calcio, sta lottando contro quello che lui stesso ha definito un nemico invisibile che gli sta creando ormai da un bel po' di tempo problemi alla vista e ne allontana, almeno per il momento, il ritorno in campo, almeno 4 mesi lo stop previsto in attesa che la situazione migliori. Ma di cosa stiamo parlando e di quale patologia in particolare parliamo rispetto all'occhio sinistro e al nervo dell'occhio sinistro di Rino Gattuso? Ebbene, per capirne di più oggi a Bordo Campo ci rivolgiamo a un esperto che andiamo a disturbare dall'altra parte dell'oceano, perché il dottor Matteo Piovella, presidente della Società Oftalmologica Italiana, si trova ad Orlando, in Florida. Benvenuto intanto, dottor Piovella. Grazie mille per l'invito. Allora, dottor Piovella, tra l'altro lei è a Orlando non certo casualmente, no? Ma perché Orlando è la sede di quello che forse è il più prestigioso convegno mondiale di oculistica appunto a livello internazionale. Sicuramente sì, cioè è garantita la presenza di oltre 20.000 oculisti da tutte le parti del mondo, perché questo è un momento di incontro per confrontare sulle nuove tecnologie, sulle nuove terapie, sulle nuove tecniche chirurgiche che in oculistica sono altamente diffuse e soprattutto hanno un miglioramento di anno in anno veramente straordinario. Tra l'altro va sottolineato che il professor Emilio Campos di Bologna, che fa parte dell'equipe che sta curando Gattuso, è proprio un membro della Società Oftalmologica Italiana, ma chiaramente per motivi di privacy si astiene da dichiarazioni pubbliche. Ecco, dottor Piovella, presidente, ci aiuti un po' a capire: paralisi del nervo cranico, che cosa vuol dire e che disturbi provoca? Prima di tutto dobbiamo partire dal presupposto che la vista è una situazione complicata. Ogni occhio presenta 6 muscoli, vi sono 12 muscoli perché 6 per l'occhio di destra, 6 per l'occhio di sinistra, e la funzione di questi muscoli è di far andare perfettamente in armonia ogni stimolo o impulso che arriva dal cervello, perché ovviamente è il perfetto funzionamento di questi 12 muscoli che ci permettono di avere gli occhi in asse diritti e quindi di avere due immagini perfettamente sovrapposte. Perché? Perché la posizione dell'occhio di destra e la posizione dell'occhio di sinistra nella persona che non ha patologie, cioè nella persona normale, sono sovrapposte, perché la posizione dell'occhio è perfettamente centrata. Cosa succede quando arriva una malattia che purtroppo colpisce la conduzione, cioè il nervo, i nervi, il sesto nervo cranico che comanda i movimenti di questo muscolo, di questi muscoli? Cosa succede? Che se alcuni di questi muscoli perdono il controllo da parte del cervello, da parte dei nervi cranici, e ovviamente non entreranno più in funzione. Non entrando più in funzione, creano un disassamento dell'occhio. L'occhio, invece di seguire in maniera armonica l'occhio di destra, l'occhio di sinistra di Gattuso a un certo punto si ferma perché il muscolo non riesce più a lavorare, perché non riceve più questo comando. Il problema pratico importante è che invece di avere due immagini perfettamente identiche, tanto che noi ne vediamo una sola, la persona che ha questa patologia vede due immagini una sopra l'altra e quindi praticamente ha anche difficoltà a camminare, inciampa, perché non ha più una visione nitida. Ecco, le chiedo, è una patologia che in qualche modo può essere accentuata in atleti di alto livello, in sport di contatto in particolare, come ad esempio Gattuso, oppure è una patologia che invece percorre altre vie e che poco ha a che fare con lo sport professionistico? In questo caso bisogna aspettare di avere una stabilizzazione, cioè bisogna capire, visto che c'è la possibilità, se autonomamente la funzione di questi nervi pian piano si riprende e quindi si ritorna alla normalità, oppure se a un certo punto la funzione dei muscoli rimane stabilizzata in questo modo. A questo punto si può intervenire chirurgicamente per riposizionare la centratura e l'armonizzazione dei due occhi, oppure si possono utilizzare delle lenti, dei prismi, che siccome deviano leggermente l'angolo della luce, ripristinano in modo artificiale una visione perfettamente identica nei due occhi. Ecco, le chiedo ancora, ma gli sportivi sono particolarmente a rischio in questo senso? Ma guardi, direi, anzi, mi permette di fare una precisazione. È ovvio che ogni sportivo ha il rischio del contrasto fisico, perché è ovvio che prendere una botta in testa penso che non faccia bene a nessuno, questo siamo tutti d'accordo, però non voglio generalizzare in questo modo. Direi che generalmente la fisicità degli atletici solitamente è una protezione in più, però volevo spendere una parola su qualcosa che ci sta cambiando senza nessuna ragione. Lei sa che noi abbiamo la possibilità oggi di avere delle protezioni utilizzando degli occhiali, mentre nell'attività sportiva gli occhiali sono stati messi al bando con la scusa che possono essere pericolosi, che ci si può tagliare, che possono creare difficoltà. Vorrei far notare invece che questo non corrisponde più a verità. Le lenti, prima di tutto, oggi si possono avere delle lenti di policarbonato, un materiale plastico, che se lei gli spara contro con una pistola non si scalfisce minimamente, quindi sono indistruttibili. Le montature oggi vengono fatte in maniera molto plastica, molto flessibile, in modo da non poter essere di danno anche ad altre persone che ci possono camminare sopra. Perché mi viene in mente che, per esempio, nelle attività di quei centri dove ci sono gli scivoli degli acquafan, obbligano le persone a non portare gli occhiali con la scusa che possono essere pericolosi. Lei pensi invece cosa vuol dire per un miope di 6 diottrie non dover portare gli occhiali? E vorrei anche ricordare un'altra piccola cosa. Il pilota Marco, che adesso è uno dei team manager della Red Bull, alla fine degli anni 70 ha perso un occhio perché durante le prove di un treno la macchina davanti gli ha fatto schizzare un piccolo sasso che gli ha distrutto l'occhio. Se avesse avuto una protezione in policarbonato degli occhiali ormai comunissimi e normalissimi, questo non sarebbe successo. In sintesi, quello che mi piacerebbe utilizzare come messaggio di questo momento un po' sfortunato di Gattuso è che la qualità della visione è un fatto molto importante. Dobbiamo tutti attivarci per mantenerla, proibire gli occhiali, che oggi non sono più un danno ma sono una risoluzione, direi che è una cosa che dobbiamo cercare di lasciare verso il passato, insomma. E allora, insomma, siamo sicuri che Ringhio Gattuso si rimetterà al meglio, ma non scartiamo neppure l'ipotesi magari di vederlo in campo come il grande Karim Abdul-Jabbar nel basket, con un bel paio di occhiali protettivi che, visto i materiali e le tecnologie a disposizione, non guasterebbero. Dottor Matteo Piovella, presidente della Società Oftalmologica Italiana, grazie per essere stato ospite di Radio 24 a bordo campo. La lascio ai lavori del convegno a Orlando, in Florida, allora. Grazie mille a tutti. Per a bordo campo di oggi è tutto, un grazie a Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che potete dialogare con noi attraverso il nostro sito web www.radio24.it, attraverso la mail a bordo campo @radio24.it e con il blog del programma sempre sul nostro sito, che è anche lo strumento attraverso cui potete riascoltarci. L'appuntamento è sempre per domenica prossima alle 14.30 e il sabato mattina alle 6.30 in replica. Buona giornata da Dario Ricci.